Of Sky, siamo un salto nel tempo degli anni 90. Vedi che anche tu allora sei sintonizzato e sincronizzato con la mia scala diacronica, vedi? E non sincronica, che pendola e pendola tra passato e presente e non solo verso il futuro, che ci mette un po' ansia questo futuro. Siamo certo. Sempre lì a parlare degli eventi futuri, ci vengono le ansie anticipatorie. Allora abbiamo pensato di parlare di quello che è successo prima. C'è un cellulare molto vicino al microfono, mi sa. Potrebbe essere il mio? No? Non so. Sento... Senti un cric? Sento dei cric, che pensavo che fosse il CD, invece il CD sta bene. Abbiamo spostato tutti i cellulari. Che abbiamo come ospiti? Allora, dunque, questa sera abbiamo due libroni che abbiamo, intanto siamo pieni di roba da studiare, che esatto. Nessun ospite mi ha mai portato tanto materiale, quindi non so se faremo in tempo a leggere tutto. Tanti materiali, tanti cataloghi, tante belle cose di mostre anche passate. E abbiamo qui con noi Barbara Ceciliato, artista e docente. È un ospite misterioso che forse lo diciamo alla fine, che ci sta prendendo in giro, no? E niente, potrete indovinare, magari forse alla fine della puntata ve lo diciamo. Sì, abbiamo avuto, diciamo che i nostri ascoltatori più attenti potrebbero intuire di chi si tratta, potrebbero intuire di chi si cela dietro questo misterioso riserbo. Però cominciamo con Barbara Ceciliato, che invece è una persona abbastanza loquace, almeno per come la conosco, però ha detto che stasera forse non parlerà, quindi non lo so, e per questo ho portato tutto scritto. Di origine polesane, nasce a Padova e nella stessa città ha modo di frequentare l'università, studiando presso la facoltà di scienze biologiche. Lo stacchetto, e questo è il motivo, esatto, per cui questo entusiasmo della co-conduttrice supplente temporanea. Quindi mia anima gemella, ti ho messo lo stacchetto con molto ritardo, però è arrivato e ci saluti. Certamente, mi fa piacere essere qua con voi, e è iniziato subito con questo mio pregresso relativo a tutte le mie esperienze passate, che poi sono confluite anche nel presente, perché ho rimescolato poi tutto questa, certo, idea, no, di aver fatto degli studi scientifici, e poi si è travasata all'interno dentro la mia attività di artista e di docente della vena artistica. Sì. Barbara Ceciliato ha insegnato fino a quale anno? Perché adesso 2018. Fino al 2018, quindi ti sei risparmiata il periodo Covid, esatto, appena in tempo, no? Ed magari dopo te ne sei occupata invece sul fronte biologico. Anatomia artistica all'Accademia di Belle Arti, sì, di Bologna. La cattedra è quella di anatomia artistica, però non sotto questa denominazione, bensì in rapporto a altri corsi che mi sono stati affidati, che sono tecniche performative, tecniche, però, tecnologie delle arti visive. Sì, beh, adesso ci sono questi titoli che vanno di moda, però io mi ricordo perché quando io studiavo in accademia, quindi mi iscrissi nel 2003, tu insegnavi anatomia artistica. Sì, certamente, c'era successivamente. Dopo c'è stato questo sgangheramento. Sì, esatto, c'è stato questo sgangheramento di questa idea di dare. In effetti, quando io ti ho conosciuta, si mormorava che insegnassi tutt'altro. Che poi bisogna, poi inteso anatomia artistica, certo. Beh, queste sono affermazioni che molto spesso vengono anche da persone che forse non conoscono l'aspetto biologico della questione, a cui quindi forse sfugge quel fil rouge. No, per me era molto inerente l'anatomia artistica, perché i miei studi scientifici mi avevano fatto in modo che io mi occupassi dell'anatomia vera e propria, quella proprio di carattere scientifico e via discorrendo, e le trovavo questo corso, quello che poteva esprimere anche le mie potenzialità, e occupandomi di corpo, ma di corpo anche contemporaneo e di corpo disegnato. Posso raccontare una delle cose a cui ho avuto modo di assistere durante i miei anni di accademia e che accadevano nelle aule di Barbara Cecigliato? Assolutamente. Allora, una volta arrivo su, che eri in una zona un po' irraggiungibile, sì, attraverso una serie di meandri, mi dice: vieni a trovare. Allora io mi avventuro, no, in esplorazione, poi parliamo anche degli esploramenti, e arrivo in quest'aula che era completamente tappezzata alle pareti con autoritratti o ritratti degli studenti, tutti che si stavano scaccolando il naso. Era molto bella questa cosa. No, no, perché l'idea era di farli lavorare, disegnare su dei grandi fogli di carta da scena che svolgevo durante tutte le pareti dell'aula, e loro avevano questo input principale di disegnare il loro corpo con un dito nel naso. Una cosa molto particolare, cioè avevo un'aula piazzata in una posizione di poca visibilità, che se fosse stata al piano terra magari avrebbe creato molto scandalo. Magari forse in aula, come si chiama lì, l'aula magna, adesso ha un nome, aula magna. In aula magna non te l'avrebbero fatto fare. Ma fatto fare, probabilmente però no. Però non è detto. No, però di questi disegni su carta da scena prodotti in grande quantità per tutto l'anno, è stata fatta una mostra nella parte del sotterraneo, quella ristrutturata, coinvolgendo tutte le pareti di questo spazio dell'Accademia. Di questo spazio non facilissimo, tra l'altro. Non facilissimo. Però metri e metri di scaccolamento. Ma no, non solo quello. Quella era la versione che ha visto lei di quel giorno. Io ho visto quell'episodio, però voglio dire, indubbiamente si tratta comunque di un lavoro che ha a che vedere col corpo. Io invece mi chiedo, ma Marco Roma cosa avrà visto invece stamattina? Vediamo. Chi lo sa? Sentiamolo. Buongiorno, si apro le finestre in casa, entra il sole, ma spero che entra il sole nel cuore, spero che lo vedi tu come lo vedo io. Da Marco Roma, buongiorno. Molto soft in tema con questa colonna sonora. Infatti, che tu hai scelto del tutto casualmente. No, non ho capito, fra l'altro ho messo un CD di jazz, ma c'è Chopin, non ho capito proprio cosa succede. No, siamo in questa versione di classicismo e poi ci stiamo appunto rilassando. Cioè, tipo, non parliamo pronti per il valzer delle candele. Cosa fai a Capodanno? Ancora non lo so, se allora allergie permettendo forse. Stai a casa. No, penso di fare un giro in Toscana, ok, però non so, allergie permettendo. Dunque, Barbara Cecigliato, insegnante, ma prima di essere insegnante artista, giusto? Sì, certo. Artista, cioè, poli. Insegno, se uno è artista insegna meglio. Insegna meglio. Questo è un grande tema. Ma da bambina volevi fare? L'esploratrice. Poi l'esplorazione non di continenti sconosciuti, ma di tutte quelle forme d'arte che io ho praticato. facendo sperimentazione su tanti materiali, per cui diventava esplorare le possibilità. Per cui la prima volta che hai visto un libro di Kerry Smith sarai rimasta questa sono io, sono capito. Io da bambina, no sicuramente. E così è quello che poi puoi vedere in... Io vedo qua scritto, ma i nostri ascoltatori non vedono, quindi non leggo vedo. Per esempio estratti, perché mi hanno portato un catalogo che è una summa abbastanza esaustiva. È una scelta dei lavori che hanno avuto anche summa cum laude, di un catalogo che inizia appunto con una serie di opere legate alla chimica, agli aspetti della sua biochimica, quindi con gli indicatori del pH, le famose cartine di Tornasole, esatto. Tournesoleil, che sono stati i suoi primi lavori, no? Sì, quindi sì, che sì, tu sì, realizzavi, facevi reagire queste. Sì, impregnavo queste carte assorbenti molto grandi di una soluzione acida oppure basica, e la spargevo in maniera tale che poi l'indicatore andava a prendere quel colore secondo se era la soluzione era acida o basica, e venivano questi paesaggi fantastici che erano mutevoli nel tempo e anche reagivano alla luce, per cui cambiavano sempre, cambiavano in continuazione. Viraggio da 0 a 3, 1979. Sì. Blotting paper. 333 180 94 94 se ci volete mandare dei vocali o chiedere o fare delle domande a Barbara Cecigliato, lo potete fare in diretta. Diteci se siete più acidi o basici stasera. Non so cosa sia più non offensivo dei due. Tutti e due molto aggressivi. In effetti. Dipende, però anche neutri. Anche no, neutri. In effetti anche neutri. Quindi sulla scala del pH non si salva nessuno. No. E infatti questo mi sembra molto democratico, perfetto. La scala del pH mi piace come fil rouge della nostra trasmissione di stasera. Quindi cominci così e poi continui a sperimentare. Guarda, per esempio, vedi questa cosa che sempre a che fare con i coloranti, con allora, Valerio Deo sta indicando adesso qui ci vorrebbe Massimo Marghetti per che è un descrittore provetto dell'arte. Che roba è? Ah, sono delle quelli delle flebo. Sì, sono delle flebo. I recipienti delle flebo con dentro colorate. Delle tempere coloratissime colorate, che hanno proprio un deflussore, un regolatore del flusso che sgocciola sulla questa panno, questo assorbente, questa la chiamiamo dei coloranti a chimici, vedi? Gocciolamento, deflussore, morsetto a vito, coloranti chimici e bambagia. E bambagia, ecco. Quindi è un'opera di tipo ospedaliero. Torna in quell'occasione lì. Una bellissima installazione con un pozzo. Molto interessante. Con l'open arte a perdere, che è curata da... degli anni 80. Del, no, 90. 90 open 94, quindi presumo che con fosse... Valerio Deo. Spazio Cultura il Navile, Bologna. Sì. Sì. Ma perché tu poi hai anche lavorato in ospedale prima di... Prima di travasarti totalmente sul colore. Esatto. Hai per cui era rimasto parecchio di quel componente anche nelle mie lezioni, occupandomi. No, non so se avete rintracciato delle sedie in accademia, che sono dei seggiolini girevoli in cui sono scritte delle malattie su tutte le sedute dell'accademia. Nessuno ci si siede mai, ovviamente dopo tutti hanno paura di prendere, non so. Perché ho contaminato. Allora adesso dovrai aggiornare il repertorio di sedie alla luce delle nuove malattie. Mi hanno detto gli operatori lì del posto che ce ne sono ancora parecchi in giro, si ricordano di queste sedie che io avevo fatto. E come mai non ce ne hai regalata una quando abbiamo fatto il concorso per la sostituzione della sedia al Museo dell'Homme? Io non sapevo, non ero informata. Ma guarda che sono in giro là nelle aule, sono state sparse, sono una trentina, anche di più. Hai capito. Allora bisognerà andare a rintracciare. Quando ne vedo una ve lo faccio sapere. Facciamo una mappa da dare. A grafica non mi sembra di aver visto sedie con delle malattie. No, ma con una malattia di tipo anno genitale venereo, di quelle lì, mica altre. Sì, mica caso. Beh, giustamente, proprio perché di quelle mica che prendi. Quindi, fantastico. Beh, anche questo è molto... Candida, è molto più anatomia artistica esatto, di così. Esatto, più anatomia di così. Sappiamo anche, no? C'erano malattie anche diffuse nell'ambiente. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. We give the most of our lives, sacrifice most of our lives. We give her everything money could. She's leaving home after living alone for so many years. Father snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, "Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me?" We never thought of ourselves, never a thought for ourselves. We struggled all our lives to get here. She's leaving home after living alone for so many years. Waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade. What did we do that was wrong? We didn't know it was wrong. Fun is the one thing that money can do. Something inside was always denied for so many years. Secondo pezzo degli anni 90. Pezzo degli anni 90. 1999, questa era Billy Bragg con una cover dei Beatles, She's Leaving Home. 1999. Spazio 1999. Seattle 1999. Vediamo se riesco a trovare che cosa faceva nel 1999 Barbara Cecilia. Ho aperto a caso. 1999, giuro. Testimoni tutti che ho aperto veramente a caso come i Ching e mi viene fuori Paesaggi del Sentire. Organismi 1999, olio, lina, lino, terre, graffite e cera su carta. È una bellissima grafica d'arte. E cosa potrebbe rappresentare? Un organismo. Sempre pensando alla scienza, vedi? È un po' a me sembra, cose... Allora, da biologa potrei dire che potrebbe sembrare la divisione cellulare un po'. Sì, ma però dopo io, un po' strana, però. Però c'è l'abbandono, poi del tema, diventa ironica il riferimento, non è più un dato scientifico pure semplice. Certo. A proposito, lo sono andato a cercare. Paesaggi spaventosi. Hai visto come mi sono sincronizzata bene? Infatti, incredibile. Questo mi E allora, paesaggi spaventosi e paesaggi del tempo del disordine, perché adesso non possiamo passare in rassegna tutta la copiosissima produzione di Barbara Cecigliato, però abbiamo fatto primi lavori, un salto in mezzo e l'ultimo, che è Paesaggi del tempo del disordine, che è stato esposto proprio recentissimamente in marzo nella Sala d'Ercole di Palazzo d'Accursio, all'interno della mostra 30 anni e un secolo curata da Da Francesco Francia. È una mostra che è stata fatta raccogliendo i lavori di chi apparteneva a questa associazione. Ma la macchina del tempo dove l'avete comprata? Perché, per far curare una mostra a Francesco Francia. Te l'avevo detto, Francesco Francia. Te l'ho detto che eravamo in questo mood un po' Carlo Rovelliano. Il tempo non esiste. L'associazione, questa associazione, l'associazione è antichissima, certo, 130 anni. La conosco, è venuta Francesca Sinigaglia a parlarci dell'associazione Francesco Francia. Vuoi dirci qualcosa per di Francesco Francia? No, per dell'associazione di Francesco Francia, qualunque cosa. Io non sono aggiornata. Francesco quindi Francia anche... era di Zola Predosa, per esempio. Ecco. Anzi, tra l'altro, in realtà il suo nome non era Francesco Francia, ma era Francesco Inghilterra. Non me lo ricordo. Detto il Francia. Detto il Francia, sì. Francesco Zolesi 333 180 94 94. Diteci, aiutateci Francia... a risolvere questa sciarada. Non mi ricordo come si chiamava Francesco di cognome. Spagna, Francesco. No. E allora salutiamo Daniela Spagna Musso a proposito di Francesco Francia. Francesco Francia. Libera associazione di idee. Abbiamo tempo per iniziare un altro argomento, Pasquini? Sì. Però poi lo interrompiamo. Però lo interrompiamo. Allora iniziamo un altro argomento, perché comunque Raibolini, Francesco Raibolini. Cioè, chi è che Raibolini, si ma ce l'hanno Raibolini. Scritto gli ascoltatori? No, me l'ha scritto Wikipedia. Francesco Francia Raibolini. Francesco Raibolini, detto il Francia. Posso dire che però secondo me e i nostri ascoltatori non hanno capito assolutamente un tubo di chi sia Francesco Francia, a parte che non sapevamo bene il suo cognome. Ci dici due parole, giusto per l'ascoltatore disinformato. Nato a Zola Predosa nel 1447, è stato un pittore, orafo e medagliista italiano attivo a Bologna. Secondo gli studi più recenti, Francia risulta nato non a Bologna ma nel Contado, a Zola Predosa, località all'epoca chiamata Ceula. Secondo il Vasari, Francesco sarebbe nato nel 1450, tuttavia si è rintracciato un atto notarile nel 1468 in cui il futuro pittore figura come testimonio a favore del proprio maestro bolognese di arte. Detto questo, Zola Predosa comunque ha dato natali a grandissimi artisti, oltre a Francia c'è il W. Pasquini. Perché lo sapevo già. Dormito lì per 11 anni e quindi anche l'ospite misterioso e anche Eva Marisaldi, che salutiamo che anche Eva Marisaldi, tuttora è residente a Zola Predosa. E quindi tu hai provato prima di essere il secondo artista più importante di Zola Predosa. Poi dopo non ci sei riuscito, sei andato a abitare davanti al Mambo. Esatto, okay. a essere il cinquecentesimo artista meno interessante di tutto il comune di Bologna. Meno interessante non direi, magari ragioniamo sul conosciuto, perché è interessante io sono tra i più conosciuti in assoluto. Tu pensa che quando qualche anno fa, se tu scrivevi Accademia di Belle Arti di Bologna, c'era studenti famosi, c'eravamo io, Magnus e un altro, qual era l'altro, che anche lui era del Rinascimento. Questo è alunni rinascimentale. Esatto, sì, alunni importanti. Adesso però io adesso l'hanno tolto, che insegno qua a Firenze, se comparirà una pagina Wikipedia uscirà Cosimo De Medici e Chiara Pergola. Esatto, giustamente. E questo è spaziale. Effettivamente questa è Coxo Spaziale. È la puntata pre-natalizia e ultima puntata del 2024, e siamo qui con Barbara Cecigliato che ci racconta un sacco di roba, anche l'ospite misterioso, che però misterioso ogni tanto ci dà degli indizi sulla sua identità, ma ancora non si svela. E con Barbara Cecigliato continuiamo a parlare della sua rocambolesca attività, che è stata anche un'attività di curatrice, quindi esploratrice, dicevamo, ma esploratrice di talenti, esploratrice di materie artistiche, esploratrice del corpo umano. Leggi una decina di sti nomi, dai. Allora, Sara Gutoli, Elisa Alessio, Claudia Attilli, Lucia Anselmi, Paola Baccigalupo, Natalia Bonaccini, Diego Capitani, Roberta Ceresa, Elena Cerrini, Laura M.Cincotta come Stefano W. Pasquini, Alisia Cruciani, Caterina Curzolas, Giuseppe D'Alessio, Iana Drumeva, Valentina Ferrari, Andres Galeano, Martina Marin, Angelo Massari, Giulia Montali, Iside Montanari, Cristina Musiani, Yale Nezamdoust. E qua mi fermo. Questi sono solo qualche nome di. Siamo a un quarto scarso. Di partecipanti di questa avventura chiamata Casa Gallery, di cui adesso ci racconti che cavolo era sta Casa Gallery, insomma. O che cos'è, anzi. Che cos'è? È uno spazio espositivo, galleria itinerante, vedo qui scritto. Perché itinerante? Sì. Perché si spostava nei luoghi in cui si decideva di essere ospiti. Dunque nasce da un'idea di Claudio Rosi, che mi sembra di averlo sentito dire. Qualcosa mi dice quella presenza leggia nello studio. Esatto, in effetti. Claudio Rosi, che già proveniva da esperienze simili. Ma gli dicono simili. Che sia un bravissimo artista, Claudio Rosi. Sembra di sì. Sembra di sì. C'è qualcuno che mugugna no. Primo artista. Per esigenza. Allora, no, lui questa idea nel 2007, che però proveniva già da un'esperienza precedente che aveva fatto costruendo altri gruppi di lavoro, tipo questo bellissimo gruppo sulla punta della lingua negli anni precedenti, negli anni 90, che aveva avuto un successo molto, molto importante all'interno di Bologna, nazionale facendo internazionale. Facendo a cui ha partecipato anche Fabio Cavallucci, mi sembra. Sì, in una delle manifestazioni l'ha fatta a Santa Sofia. E salutiamo anche Fabio Cavallucci. Ci sono state tante situazioni che hanno preceduto la nascita di Casa Gallery. È nata Casa Gallery, cosiddetta, che un nome non può sembrare così, e invece era voluto proprio da chi l'ha organizzata all'inizio, questa signora con una specie di Peggy Guggenheim bolognese, che ci ha dato ospitalità nella sua casa a tre piani in vicolo Catani 4 per diversi anni, compreso poi anche il suo ristorante che era in via Mascarella, si chiamava Mascarino, adesso non esiste più. E da lì è partita questa folgorazione. Si chiama questa nostra Peggy Guggenheim? Grazia Magri. Grazie, che adesso Magri. Che ringraziamo. Grazie. Veramente incredibile. Con Cesenatico. Adesso a Cesenatico, non so dove sia andata. Comunque a un certo punto era poi questa casa che aveva a tre piani, anche quella specie di grata di soppalco con sì. Non so adesso cosa sia diventata, poi so lei l'ha venduta. C'è una specie di ponteggio. La casa di incento tutta blu. L'aveva piena di specchi, piena di queste altalene, con un giardino interno con le palme. Incredibile, avevamo delle inaugurazioni con centinaia di persone in questa tropicali casa. Ce la siamo ad andare dappertutto. Che bello. Veramente incredibile. E poi il ristorante. Tutti. E ora per anni questo luogo, veramente senza fantastico. Vestito. Hai capito? Sì. Tutti nudi. Anche sì. È il tuo posto, è Pasquini. È strano che non. Com'è che non avete chiamato Stefano D'Alimani? Perché non mi conoscevano ancora. Hai capito? Con delle performance in cui c'era anche questo nudo che passeggiava. Senza vestito, senza nudo, che non è la stessa cosa esattamente. È diverso, senza vestito. Averlo, saperlo, portavo il pezzo di Lolli che si chiama appunto Tutti Nudi, con una T sola naturalmente. Io te l'ho sempre detto che bisognerebbe ascoltarlo un po' di più Lolli su queste. Saluto anche il grande Lolli. Riccardo Lolli, che potete ascoltare al giovedì alle 11 con uova, soda e noci sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Bene, l'angolo della menzione. Vi ho segato così. Ci tocca pensa questo compitino. Adesso loro si preoccupavano qui in studio dei troppi nomi che ci hanno portato. Adesso devono aspettare che cosa succede. Che adesso io legga martedì 17 dicembre, succede? Che è domani alle ore 11, 7 vite per la libertà. I fratelli Cerni, cerimonia di donazione delle stampe realizzate dalla scuola di grafica d'arte. Martedì 17 alle 11, l'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna ospiterà la cerimonia di donazione dell'istituto al uccide cervi di Gattatico in provincia di Reggio Emilia, di un book di stampa eseguito da docenti e studenti del triennio e del biennio di grafica d'arte nell'ambito del progetto Sette vite per la libertà, i fratelli Cervi. A rappresentare l'istituto, costituito nel 1972, dedicato alla memoria di Alcide Cervi e dei suoi sette figli martiri dell'antifascismo, saranno la presidente senatrice Albertina Soliani e la responsabile del museo Paola Varesi. Per l'Accademia di Bologna interverranno il direttore Enrico Fornaroli e i docenti Maria Rita Bentini, Evgenia Hristova e Agim Sacco. Questa è l'Accademia di Belle Arti in Aula Magna, domani alle ore 11 in via Belle Arti 54. Martedì 17 dicembre alle ore 17 presso l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna e... c'è, ho sbagliato a leggere, sbagliato perché ho sbagliato a leggere, fra poco si capirà, l'artista nascosto è lieta di segnalare la mostra Void Ideas personale di Stefano W. Pasquini che inaugura in via Aldo Moro 50. È vero, il lavoro di Pasquini, adesso sentiamo un po' come viene descritto, perché lui è il contrario dell'ospite misterioso, lui è proprio l'ospite esibizionista. Esatto. Il lavoro di Pasquini quindi si è sempre contraddistinto dalla varietà di mezzi usati, e in questa quasi retrospettiva troveremo pittura, scultura, fotografia, video, stampe e bandiere. Da un'opera in poliuretano espanso del 2000 ad una stampa di quest'anno, l'opera di Pasquini, per citare il curatore Sandro Manussini, che salutiamo anche lui, attraversa linguaggi diversi modificandoli a suo piacere, usa la parola come immagine e pone il significato a latere come seconda lettura, come serio divertismondi e se stesso. Ma tutto il lavoro pittorico, fotografico e installativo è negazione della casualità, è frutto di maturazione lenta e accudita, portatore di pulsioni, di respiri affannosi e ricomposti, ricontrollati, ripensati. La mostra è visitabile fino al 24 gennaio ed è accompagnata da un catalogo di 160 pagine, più delle pagine del catalogo. No, molte meno. Queste sono almeno 360. Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna in viale Aldo Moro 50. Volete sapere cosa fa il nostro conduttore, potete recarvi lì. Ok, mentre invece mercoledì, che sarebbe il giorno successivo, dalle 16 alle 22, in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Bologna, tanto per cambiare, Xin presenta Irnerio 45C, My Voice, My Void Number 2. Sound performance durational del pianista Marino Formenti, che ritorna a Bologna dopo il progetto Nowhere nel 2012. L'appuntamento è un hall che si localizza nella nuova ala Irnerio dell'Accademia, a cui si accede da via Irnerio 45C e durante il giorno anche dall'ingresso di via Belle Arti 54. In My Voice, My Void Number 2, Marino Formenti riprende a esplorare le possibilità tecniche e musicali del player piano Inspire, ultimissima generazione di Disc Lavier, cioè di pianoforti computer driven, macchine in grado di suonare da sole. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. Questo è in Accademia di Belle Arti, in via Belle Arti 54, tutto mercoledì dalle 16 alle 22. Ala Irnerio, la nuova ala della grande dell'Accademia. My Voice, My Void e Void Ideas, avete fatto apposta tu e Formenti. Certo. Il giovedì 19 dicembre dalle 14 alle 16, ultima puntata di La Curatrice è presente, nell'ambito della mostra Tramando, le acquisizioni di Francesco Arcangeli per la Galleria d'Arte Moderna di Bologna, visitabile nella Project Room del Mambo fino al 6 gennaio 2025, ogni giovedì 4 appuntamenti, di cui questo è l'ultimo, quindi accorrete. Accorriamo. 4 appuntamenti che vedono Uliana Zanetti, la curatrice dell'esposizione, instaurare un dialogo diretto con le visitatrici e i visitatori interessati ad approfondire i contenuti della mostra Mambo, via Don Minzoni 14 a Bologna. Sempre giovedì dalle 19 alle 21 abbiamo Supernova, il nuovo distretto di Bologna. Presentiamo oggi il nuovo distretto artistico di Bologna. Supernova è la volontà di riunire in un'identità collettiva varie realtà operanti nel mondo dell'arte, vicine per posizione e per vocazione. Supernova proporrà eventi tematici di promozione artistica nei quali verrà data la possibilità di venire a contatto con il mondo dell'arte. Vieni a conoscere il distretto, ti aspettiamo, dice Boa Spazio Arte, dove giovedì, venerdì e sabato dalle 19 alle 21 ci sarà un DJ set, e si parte con il DJ set di Dopamina di Radio Città Fujiko 103.1. Un nostro DJ, per cui hip hop e Brindisi con Friulano Doc. Tutto questo a Boa Spazio Arte in via Barberia 24A a Bologna. Siamo arrivati a venerdì 20 dicembre alle ore 17. Cristian Fogarolli, corpo eterico. Per la sua mostra al Museo Davia Bargellini, Cristian Fogarolli ha concepito un progetto espositivo che, come sempre nella sua arte, riflette sulle caratteristiche intellettuali ed emotive dell'individuo in relazione al contesto sociale e culturale. In questo caso specifico, le opere di Fogarolli dialogano con le testimonianze della vita quotidiana, della quale gli oggetti della cosiddetta arte industriale esposti al museo sono la più viva espressione. La mostra, a cura di Pierpaolo Pancotto, rientrerà nell'edizione 2025 di Art City Bologna fino al 16 febbraio al Museo Davia Bargellini, strada Maggiore 44. Olè. Questa è l'ultima pagina. Secondo me c'è qualcosa anche domenica, ma non me lo ricordo più. Non l'abbiamo segnato. Qualcosa, ah, no, ogni tanto so, qualcosa so che c'è qualcosa che mi è sfuggito solo perché l'ho letto poco prima di entrare in trasmissione, ovvero c'è un brindisi di natalizio alla sabato pomeriggio alla Riete. Allora, se qualcuno vuole farsi un cicchetto, sa si dove palesi andare. Alla Riete. Esatto. A che ora? Sabato pomeriggio dalle 16 in poi. Dalle 16 in poi. Adesso leggo un'altra manciatina di nomi. Dai. Santo Nicoletti, Francesca Annò, Damiano Paroni, Marta Pezzucchi, Serena Piccinini, Emanuela Pizzolla, Alfredo Ranieri, Margherita Righini, Carmen Russo, Dario Russo. Scala, Maurizio Secchi, Vittoriano Suriano, Valeria Talamonti, Miriam Tettiviola, Mona Lisa Tina, Alice Vignola, Giulia Dallago, Antonietta Di Vito, Ambra D'Atri, Pietro Magnani, Matteo Manfrini, Antonietta Mazzeo, Sara Neva. Mi fermo qua. Questo è circa un po' prima di metà di tutti gli artisti che hanno esposto a Casa Gallery, giovani artisti, alcuni che adesso magari conosciamo e che hanno continuato la loro attività espositiva anche in altri luoghi, ma che molto spesso sono partiti proprio lì. Assolutamente sì. Come, continuando il discorso di prima, è partita da lì una curatrice che adesso è veramente in auge, diciamo, che è Alice Zannoni, che salutiamo. Che ha cominciato curando e scrivendo sugli artisti che esponevano nella Casa Gallery di questa signora Grazia Magri. E adesso corre come se non ci fosse un domani. Esatto. Però lì si sono succeduti anche altri, tipo Annalisa Dall'Occa, Rosita Termenini, Eleonora Fontana, non so, lo stesso Bruno Bandini, docente dell'Accademia, o Luca Della Casa, tantissimi altri. Ma erano persone e studenti e curatori con erano entravi in contatto attraverso la tua docente? Dunque, tanto nasce con l'idea di proporre questo spazio per studenti che facessero l'ultimo anno, se fossero diplomati all'Accademia. Era uno spazio dedicato ad esposizioni fatte per quel genere di persone, cioè i nostri studenti o studenti in generale dell'Accademia che stessero per finire, però, o che stessero per farle laureandosi, presentando una tesi interessante, veniva proposta l'opera, dovevano condividerla con lo spazio abitativo della signora. Quindi declinarla in senso site specifico. Sì, assolutamente site specifico, perché questa è la caratteristica del Casa Gallery. Convivere, per cui sale specifico, e anche far sì che interagisse con l'ambiente, il tutto, il progetto specifico proprio. Io ho una domanda impertinente. Fai una domanda. Ma adesso che non insegni più in Accademia, sta Casa Gallery come fai a organizzare? La Casa Gallery adesso è quiescente. È in remissione. È entrata in sonno, come vado a dire. È entrata in remissione. Ma non stai scalpitando? Non stai scalpitando? No, non lo so. Questo perché dalla casa della signora. Sono poi il signore ha venduto, siamo passati ad essere ospiti di tanti altri posti, proprio in questa idea di essere itinerante e di essere ospitati dall'hotel Baglioni all'hotel I Portici al Festival di Pesaro in tantissimi spazi prestigiosissimi, fino a confluire al Museo della Resistenza di via Sant'Isaia 20. Certo. Fino al 2020 il Covid ha fatto terminare la nostra esperienza. Per tanti anni abbiamo esposto lì, ospiti permanenti, 3-4 mostre all'anno. Dove la settimana scorsa? Dove la settimana scorsa è stata inaugurata la mostra dell'artista che avete proposto nella scorsa Paolo intervista. Buffalini, Paolo che ha fatto Buffalini. Un ottimo lavoro, devo dire. Peccato che è durata solo 4 giorni. No, noi invece avevamo 4 volte all'anno. Quattro volte all'anno. A volte 4, 3. anche 5, sempre per Arziti. Certo. Per, e per Arziti quest'anno cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Non si sa. Sempre Davide Rivalta quando parli così. Poi è tua realtà, espressione Museo della Resistenza per. È durata fino al 2020, ho detto, per 14 anni. Cavoli. Tanti. Ah, sì. E il Covid ha creato questo disastro, per cui questa nostra idea di artisti run space, no? Di artisti run space che cercano spazi, in un certo senso lo continua ancora. No, è paradossale, perché nel momento in cui si doveva stare tutti a casa, la Casa Gallery non sapeva più dove andare. Ecco, sì, si è creata questa problematica qui. Un spazio temporale. Nonostante tantissime mostre, più di 80. Devo dire il catalogo che sto sfogliando e mi sto ricchi. Io mi sto un po' distraendo perché nel frattempo stavo guardando questo catalogo che è veramente bellissimo. Questi cataloghi sono fatti in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti, perché l'Accademia era, come dire, uno dei sponsor. L'ospite misterioso chiede la parola per raccontarci dove si può trovare. Il curatore è il catalogo anche. Okay. No, e poi comunque sono sfogliabili su Issue. Sì. Hai visto? E quindi si può scaricare e magari noi metteremo adesso, il link. Esatto, domani su coxspaziale.blogspot.com non solo potete riascoltare le parole di tutti noi, ma potrete anche trovare i link per guardarvi i cataloghi che noi stiamo sfogliando e che ci distraggono dal continuare a parlare. No, perché è veramente bellissimo. Tutti. Ci sono tutti. Ah, perché questo è solo uno dei tanti? Certo. Questo è il nostro. Sono sconvolta. Quello è l'ultimo. Cioè, ogni anno usciva un volume di questa mole. Ma è sconvolgente. Avete fatto un'attività come si chiama? Fatesi essere ancora in salute dopo tutto questo, cioè è incredibile tutto questo lavoro. Ma è veramente gratuito, super lavoro. Succede a Bologna. Succede a Bologna. Dove lavori, però. E poi, se va bene, qualcuno ti chiama in radio una volta ogni morte di Papa. Veramente abbiamo fatto tantissimo lavoro, tantissimi amori con tantissimi ragazzi. Alla fine eravamo lì che avevamo pensato anche, oltre ai giovani artisti già usciti dall'Accademia, pensavamo di proporre anche docenti artisti. Mm-hmm. Puntavamo anche su qualcuno di più anziano. Gli abbinamenti. Volevamo fare questa cosa. Adesso è cavalcata da vari. Il Covid ce l'ha bloccato. Questo museo è stato chiuso, non esiste più. Museo della Resistenza. È vero, non esiste più il museo. Non esiste della più, adesso hanno riaperto. Il sindaco è diventato presidente della situazione. Sì, adesso il ex sindaco è diventato presidente dell'Istituto Parri e hanno ricominciato, però tutto il resto è stato tolto, quindi era smantellato. Adesso leggo un'altra manciata di nomi e poi decidi tu cosa fare. Rose Rodriguez, Virginia Sartori, Arcangela Eleonora Di Blasio, Filippo Gardin, Chiara De Bernardi, Roberta Simonetti, Letizia Goldoni, Zhao Yaye, Hu Yung Yuan, Zheng Ning Yuan, Valentina Rosa, Wang Senjie, Liu Sisi, Clarissa Spoladore, Zhang Ting, Gao Yang, Liu Zhenru, Arianna Bassetto. Adesso mi fermo perché sono stata bravissima, ma secondo me fra un po' mi sbaglio. Mi scappa un applauso. Un applauso, una medaglia di al merito. Ci sono anche tutti quelli. Ce n'è anche degli altri in un'altra pagina. Ci sono degli altri artisti ancora che non però devi rigirarli perché non puoi averli cognome e nome. No. Mi rifiuto. No, adesso li rigiro, li leggo alla rovescio, palindromicamente. Federico Aprile, Federica Barbieri, Ida Bentinger, Giulia Bonora, Roberta Cavallari, che salutiamo pure lei, Paola De Dominicis, Federica De Ruvo, Matilde Fabbri. Della Federica De Ruvo comprò un'opera anni fa Marc Gelou, che salutiamo anche lui. Comprai in un mercatino un'opera della Federica De Ruvo. La mia studentessa. Sì, molto brava. Molto brava. Ha fatto delle cose interessanti. Anche la Giulia Bonora è molto brava, l'abbiamo avuta in radio anche lei. E Gianluca Ferrari. Molto particolare la Federica. Ah, molto sì, certo. Molto particolare. Dice il nostro ospite misterioso. Possiamo chiamarla in radio una volta anche la Federica. Abita un po' in Francia, però. Bruxelles. Bruxelles. Forse no. Ok. Allora forse facciamo un po' fatica. È Roberto Frezza, che è stato un mio studente, lo diciamo così, un passato, così, salutiamo un passant, anche lui. Salutiamo. Chiara Gattavecchia, Giulia Giannerini, Monica Lasagni, Valentina Lasagni, sorelle e fratelli, Alessia Lusuardi, Valentina Mattei, Sara Menegatti, Giulia Orlandi, Valeria Pelosi, Andrea Celeste Righi, questa era difficile da leggere, palindromo, per certo. Gran 3, Letizia Rostagno, Martina Scattaglia, Serra Monica, ce ne sono degli altri ancora, Tomomi Takamatsu, Rosetta Termenini, Silvia Tuveri, Cristian Valdinoci. Anche no, e poi c'è un'altra pagina intera di nomi. E poi c'è un'altra pagina intera di nomi, però che possiamo ignorare. Forse non li leggiamo tutti. Bellamente. Sono artisti questi che abbiamo letto in quest'ultima tornata palindroma, no, che erano più, diciamo, una rappresentazione, più continuativa. Una puntata extra di Coxo Spaziale, magari registrata per la settimana prossima, con solo tutti i nomi che mancano. Solo tutti i nomi, esatto. E poi magari un paio di canzoni. Tutti i nomi e tutti i titoli da una parte, tutti i titoli delle opere dall'altra. E tutti i nudi. Ma studenti, ma due giorni fa, ma studente. Tutti i nudi. Performance percepitando. Questo è difficile da leggere. Devo dire che questo attimo radiofonico non sta funzionando benissimo e non ho neanche... E non ho neanche un'altra canzone. E non hai neanche una canzone da mettere, quindi niente, ci toccherà dire delle altre cose sui nostri ospiti. E adesso Barbara Ceciliato, stai lavorando a un'opera? Certo, si interrompe mai. Tra l'altro lo studio, possiamo dirlo? Sì. Possiamo dare questa nota di cronaca locale, così ricordiamo anche quello che è successo qualche mese fa, neanche tanto. Lo usava studio, San Mamolo, e quindi sei stata anche allo... Sì. Purtroppo ho avuto dei grandi danni dovuti a questa invasione di campo del fiume Aposa, che ha fatto diventare via San Mammolo un fiume, e ho avuto lo studio allagato perché proprio nella zona ho perso parecchio materiale cartaceo, che è il materiale di cui uso di più come produzione artistica. E ti tocca di rifarlo. È quello con cui sto lavorando, perché lavoro sui rotoli, enormi rotoli da 50 metri. Il fiume. L'immagine del fiume penso che siano visibili. Le abbiamo viste ovunque, purtroppo è andata così. Tanti sono rimasti. Per cui ho avuto un po' di interruzione dovuta al fatto di essere di ripristinare il luogo di lavoro, però continuo a lavorare, assolutamente sì. Bisogna allenarsi e finire di produrre questi rotoli infiniti di carta che io disegno. In modo, diciamo, quasi ossessivo, quasi compulsivo. Adesso qua vedo visitatori di Casa Gallery e stavo guardando It's the end of the Jenny Street. Abbiamo il visitatore di Casa Gallery che è rappresentato qui, è Enrico Fornaroli, al quale dobbiamo dedicare, lo dico ora in radio ufficialmente, una puntata, una 24 ore, una 24 come una DJ, puntata di 24 ore. Non so come avvieremo questa trattativa per ottenere le 24 penso ore che di... ci dovrai provare tu, perché qualcosa mi dice che se io gli propongo 24 ore a Radio Città Fujiko, no, veramente è stato lui a richiedere questa cosa, quindi adesso ci tocca farla. Bisogna vedere se ci danno lo slot. Più che altro adesso ci tocca di finire la puntata, perché ahimè il nostro tempo è finito. Sì. E vedo la luce che si accende nel retro, per cui i nostri amici di Panta 80 sono qui, mentre la settimana scorsa ci hanno paccato, sta settimana sono qui che incalzano e noi dobbiamo possiamo sloggiare. Ringraziare ufficialmente il nostro ospite misterioso, il cui nome è Claudio Rosi, e io artista grande sperimentatore, ricercatore, esploratore dell'arte dal 1970, quindi sono più di 50 anni di attività artistica indomita. E naturalmente ringraziamo la nostra Barbara Ceciliato, il cui tomo da 650 pagine ci delizierà per tutte le vacanze di Natale. Sono 257. Sì. 257 pagine. Sembra di più. Quelle e naturalmente vi salutiamo con le solite parole del nostro meraviglioso direttore di radio, che ci saluta così. Posso ringraziare, no? Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Puoi ringraziare. Ringrazio tantissimo. Stefano, di averci invitato qui. Mi ha fatto piacere, ma è stata una cosa divertente. In realtà ti ha invitato. Rilassante, ha parlato di una cosa che mi interessa. Come al solito, cui... i meriti non però mi sono mai effetti, riconosciuti. Però in effetti io ero Chiara Pergola. No, volevo finirla. L'hai interrotta. E naturalmente Chiara Pergola, che Chiara condivide Perno. Con me tanti interessi e soprattutto una bella forma di simpatia reciproca, almeno per me. Ovviamente, più che ricambiata. Questo era l'ultimo coxo spaziale dell'anno. Una bella serata. Una bella serata. Grazie Claudio, grazie Barbara. Con due soggetti veramente veramente notevoli. Grazie. Niente. Stefano W. Pasquini e io ero Chiara Pergola, naturalmente. Questa era Coxo Spaziale. Ci sentiamo, stavo per dire lunedì domani prossimo, invece ci niente. Ci vediamo domani all'assemblea legislativa della regione. Facciamo così. Che splendida giornata! Faccio sul serio, io sono lì.